Della Vergine Coronata, partecipare alla Via Crucis che inizierà alle ore 9 ogni mattina e alle 14.30 con lo stesso appuntamento, sempre alla Statua dell'Incoronata, percorrere i passi di Bernadette, i luoghi della sua vita. Altre informazioni le potete avere al centro delle informazioni. Ricordo che la benedizione che ora verrà impartita è valida anzitutto per che presenti e poi per tutti gli oggetti di pietà e di devozione che portate con voi. Auguriamo a tutti voi buona festa.